Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sforzo 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sei un porco, un disgraziato! Ma che sei impazzita, ti giuro, Elena, mi devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale! Pasquale, mio cugino! Siamo andati al cinema insieme! E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti del mare azzurro! Travolti dal solito destino nell'azzurro mare d'agosto! E perché tu sei tornato alle due? Perché Pasquale è voluto andare a cena, sai, dopo 2 anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente. In che ristorante voi siete stati? Cosa? A Trastevere. Trastevere, sì. Da chi? Da quello famoso, il Boia. Franco Piantarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia. Sai dove sono stato negli ultimi 2 giorni? Anzi, quattro? Pierluigi Pardo? Non lo so. Allora, vuoi saperlo? Vabbè, dai, lo dico. Era una festa insieme a Ghezzal. Lui vestito da Bin Laden, non so se hai visto il tweet. Io da Pardo. Ho fatto una strage. Immagino. Che avete detto senza di me? Avete fatto, avete sentito il rumore dei piatti, stracci che volano, piatti che si rompono? Guarda, ieri c'era la puntata autoreferenziale, autoreferenziale, tutti gli auguri di compleanno, è stata una cosa veramente, un momento bassissimo, diciamo, proprio utilizzo della radio per scopi privati. E d'altra parte, non voluti da me, d'altra parte tu diventi vecchio, eh? Cioè, gli anni passano per te. Sì, capito. Per me meno, ma cosa avete detto? Vi siete divertiti? Avete fatto il pro Prandelli contro Prandelli? Sì, ce l'ho. Cosa dicono i ragazzi? 800240024. Ma che insomma, stanno? La mia sensazione è che sul codice etico Prandelli non è che proprio abbia, adesso non sono Mannheimer io, quindi non ho proprio i sondaggi. Però mi sembra che non è che proprio abbia convinto tutti sul codice etico, sull'applicazione del codice etico, sul principio in realtà penso che poi siamo tutti abbastanza d'accordo. Sì, siamo d'accordo sulla storia degli striscioni e dei cori, no? Che poi ci vuole un attimo a travisare, allungare, restringere, cioè in linea di principio va bene tutto, poi quando si tratta di passare dal principio all'applicazione concreta, a me il codice etico ha un po' stufato. Al di là di queste, io credo invece che io sto con Conte in questo caso, posso dirti? Ma io ti dico la verità, credo che per me la forma è stata sbagliata e qualcosa non ha funzionato nella normale comunicazione che esiste fra società e nazionale. Io non trovo nulla di male nel fatto che ci siano questi rapporti che non riguardano solo la Juve, ma riguardano tutte le squadre, un rapporto di reciproca collaborazione. E esatto, qui, bravo. E qui diciamo che dal punto di vista del buon senso, io Conte lo capisco. E comunque alla fine. Ma Prandelli glielo danno il cellulare aziendale, secondo te? Quello federale? Sì, però Prandelli ti dice, punta di diritto ha ragione lui. Prandelli ti dice, il giocatore era convocato. Ma cosa vuol dire diritto? Vuol dire che è fisicamente guarito. Secondo me qui più della polemica di decidere chi ha ragione e chi ha torto, la notizia è un'altra. Cioè? La notizia è che, che comunque insomma qualcosa nella collaborazione non ha funzionato. Quindi evidentemente. Per quanto ne so io, allora Prandelli non ha l'abitudine, che secondo me sarebbe anche legittima, voglio dire, sarebbe meglio l'avesse, di chiamare i suoi colleghi, di rapportarsi con i suoi colleghi dei vari club. Ciao Antonio, non come ce stai? L'ha in assoluto, dici? In assoluto. Antonio, come stai? Come sta Chiellini? Lo chiamiamo, non lo chiamiamo? Come sta? Chiama Montella. Vincenzino, come stai? Come stanno i tuoi giocatori? Non si fa in punta di diritto, secondo me, si fa in punta di buon senso. Sì, infatti la Juve fa un punto di buon senso. Dice che il giocatore era tecnicamente guarito, aveva fatto solo un allenamento, quello della rifinitura, il sabato prima di Milan-Juve, è andato in panchina, non sarebbe mai entrato, è andato per far numero. E che quindi in una situazione di questo tipo, considerando che Magnetaria ovviamente è un amichevole, quindi insomma non ci sono i 3 punti in palio, a questo punto poteva essere più sano dal punto di vista della Juve lasciare il giocatore a casa. Sì. È anche vero, sinceramente, è anche vero che poi l'abbiamo visto già l'altro ieri allenarsi, continuare ad allenarsi a parte, quindi di fatto gli abbiamo visto fare più o meno le stesse cose che avrebbe fatto a Binovo. Quindi insomma sì, lo so. Però, guarda, non è un tema che mi appassiona. Secondo me la cosa più stuzzicante è quello che c'è sotto, senza fare dietrologia clamorosa, però è che qualcosa nella comunicazione qui non ha funzionato e che probabilmente la reazione, l'abbiamo visto stizzita di Brandelli con Conte, fa capire che in questo momento i rapporti fra i due sono ai minimi termini. Questo sì. Senti, posso farti ti faccio una domanda così secca, poi parliamo con gli ascoltatori, aspettiamo un certo zio dopo il traffico 80024, ma pare 800240024 numero verde e Vidic che arriva all'Inter, un sacco di cose, però allora è possibile che ti confido una mia impressione. Allora, la mia impressione è che Prandelli pensasse alla panchina della Juventus. Sto facendo ovviamente della fantafilosofia. Allora, Prandelli pensava alla panchina della Juventus, Conte era in procinto di lasciarla e magari ci sono stati anche degli ammiccamenti. Poi Conte verrà confermato alla Juventus. Prandelli verrà confermato alla nazionale. Sì. Non so con quanta buona soddisfazione reciproca. E in questo momento tra Prandelli e Conte, tra Prandelli e la Juventus, non ci sia esattamente buon sangue. Non me l'ha detto nessuno, ma è una ricostruzione molto credibile. Cioè, non c'è nessun elemento di questa ricostruzione indiziaria, non c'è nessun indizio che non abbia senso. Vanno tutti. Sono tutti veri, nel senso che Prandelli potesse essere una soluzione per la Juve, non ci sono dubbi. Che Conte potesse cercare qualcosa di interessante all'estero, non ci sono dubbi. Che Prandelli improvvisamente abbia virato sulla nazionale, che Conte abbastanza improvvisamente, repentinamente abbia virato sulla Juve ancora per il futuro, è evidente. E che in questo momento ci siano dei problemi, l'abbiamo visto l'altro giorno, quindi tutto torna, che ci possa essere un nesso fra queste cose non mi stupirebbe. No, ovviamente stiamo inventando, 800-24, sì, giochiamo. 800-24, 0024 numero verde, traffico e poi di nuovo qui. E penso che siano situazioni nelle quali non ci si possa sbilanciare, perché non sono a conoscenza di quello che è accaduto proprio nello specifico, e penso più che altro di avere un ruolo e un'età che mi permette ancora di poter stare in disparte e ascoltare e vedere, ecco, senza poter giudicare. Tutti convocati. Verità, e tra poco ne parleremo, anzi mi piacerebbe parlarne anche con voi. Verità è che insomma questo casino esce anche dal fatto che sarà quella di questa sera al Vicente Calderon sarà una come tutte le altre amichevoli sparse per il mondo, saranno delle inopportune mascherate, visto che è carnevale, perché non ha senso buttare comunque le nazionali in mezzo a un traffico di partite mostruoso quale c'è in questo periodo, e poi è ovvio che si creano questi problemi. Eccolo qui, zio Bergomi, buongiorno, ciao Beppe. Ciao, ciao, bentornato Carlo, ciao. Grazie. Ciao Pier. Pier è caduto dal cornicione, sai che lui si mette a fare il collegamento a Mediaset sul cornicione, perché è l'unico posto in cui prende. Sì, Sì, e allora però deve aver avuto qualche problema con i piccioli, adesso lo recuperiamo. Hai visto che Torreira ha preso un difensore, eh? Vidic, ufficiale. Non esattamente un prospetto, 32 anni, però arriva dal Manchester United, grande palmarès, grande pedigree. È vero, però è anche un giocatore che se sta bene può essere ancora utile, uno che ha fatto tante battaglie, arriva da tanti infortuni. Guarda, parlavo con Stromberg settimana scorsa che ci siamo trovati a Istanbul e lui arrivava dalla partita dell'Olympiacos contro il Manchester e mi aveva detto che aveva fatto male. Però anche secondo lui, se sta bene fisicamente, può essere un buon acquisto, anche se l'Inter lì ha un giocatore come Samuel che un annetto di contratto ancora glielo rifarei. Sì, sì, sì, Samuel è il classico giocatore di cambia la squadra, o poi io sono per il rinnovamento, anche perché questa squadra che non aveva bisogno, però sinceramente... Ecco Pardo. Eccoci. Ciao zio. Ciao Pier, ciao. Mi ha recuperato, era sul cornicione di Mediaset. Sì, sì. Solito triste destino. Senti, ma questa che lettura dai, Beppe, della storia invece di questo fighting tra Prandelli, la Juventus, Conte, eccetera, eccetera, eccetera. Io l'ho detto chiaramente, sto dalla parte di Conte, perché ci vuole cooperazione tra colleghi, cosa che secondo me in questo momento manca. Può anche essere questo, però io lo vedo come uno spreco di energie, come ha detto Prandelli, da parte di tutti, e una polemica che doveva nascere ma è finire subito lì con un chiarimento facile tra i due. Ecco, io penso che tante volte nel merito Conte possa avere anche ragione, e poi sta usando dei toni che forse vanno oltre. Io lo conosco bene Antonio, so che caratterialmente è uno molto forte, però in queste situazioni secondo me poteva questa e anche quella con Capello gestirla in maniera diversa, ecco, tutto lì. Nel merito può anche aver ragione. Luigi, sì, prima parlavo dell'inopportuna, comunque dell'inopportunità di questi impegni internazionali in un angolo, stretti in un angolo tra campionato, un sacco di sfide determinanti per il campionato, il momento è cruciale, le energie sono poche, sei impegnato in mille viaggi in giro per il mondo e ti spaccano i morti anche con le nazionali. Forse l'errore è a monte. L'errore è che esiste un contrasto abbastanza ovvio fra gli interessi della nazionale e gli interessi del club. Insomma, questa cosa non è, sì, non la scopriamo oggi. Qui si discute sempre su tutto, sugli stage, sul tempo a disposizione, il calcio del club è quello che paga gli stipendi e che poi alla fine muove buona parte dell'interesse del mondo del calcio, insomma, con tutto il rispetto per le nazionali. Però insomma, questa, quindi ogni tanto queste due cose poi collidono e si va allo scontro. Insomma, sono d'accordo con lo zio, io credo che qui fosse veramente una cosa da chiudere subito, che la cosa più interessante appunto è la mancata collaborazione che c'è stata e i toni che sono stati usati, mm-hmm, più della vicenda di per sé, mm-hmm, che la vicenda è banale. Il fatto che si sia alzato un polverone di questo tipo per una vicenda complessivamente banale fa capire che i rapporti sono ai minimi storici. In generale questo è, non sarà né la prima né l'ultima volta che ci saranno situazioni di questo tipo, che i club discuteranno con le nazionali sulla convocazione o meno di alcuni giocatori. Sì, però sai, per Prandelli ha le briciole, Lo so, però questa storia esce proprio perché secondo me non c'è comunicazione tra le parti, e questo è il vizio di fondo, perché altrimenti si scazzavano per telefono e poi Chiellini non andava o non andava, ce ne facevamo una ragione tutti quanti. Però secondo me questa mancanza di cooperazione tra colleghi è, non è il massimo della vita, almeno per come la vedo io. Poi è chiaro che Beppe, tu avrai sentito non so quante volte Lippi raccontare di quella storia che c'era un giocatore infortunato che chiama il medico e dice no, ma fallo venire lo stesso anche se non può giocare, che fa gruppo, che il giocatore era Totti. È vero che un giocatore come Chiellini può essere anche chiamato per fare gruppo a prescindere dall'impiego, per visto che siamo in prospettiva mondiale eccetera eccetera, però ripeto, è un momento della stagione molto complicato, Sono d'accordo, io non sono d'accordo con te Carlo quando dici che forse non andavano fatte questo tipo di amichevoli. E invece l'Italia ha bisogno di fare sempre però amichevoli importanti. Cioè, io mi ricordo quando ero nel gruppo storico, io, Vialli, tutta quella gente lì, insomma, volevamo sempre fare amichevoli contro formazioni toste, cioè l'Inghilterra piuttosto che la Spagna, la Germania, perché quelle servono assolutamente. Quindi è vero che è compressa in calendario, ma questa ci fa solo bene, perché ci fa crescere e ci fa capire anche la forza nostra, anche se è un amichevole. Per quanto riguarda il resto, in questo momento è diverso dal passato, e se Chiellini ha fatto solamente un allenamento era meglio tenerlo a casa e farlo recuperare bene, parlo per la Juventus, ecco, senza mandarlo in nazionale, che a quel punto con tre giorni solamente è difficile fare gruppo, ecco. Per fare gruppo ci vuole, bisogna stare insieme sicuramente più tempo. Ma poi scusate, ma Chiellini ha bisogno di fare gruppo in nazionale, dai. Appunto. Questo discorso vale per De Rossi, cioè sono giocatori che rappresentano l'anima di questa squadra, e quindi insomma questo discorso secondo me non ha proprio validità, dai. Questo è stato un problema di comunicazione, è una cosa che è cresciuta a dismisura, perché, e su questo sono d'accordo con lo zio, poi diciamo che Conte non la tocca mai piano, cioè non è che fa mai una polemica sottintendendo qualcosa, no, poteva farci questo favore, tenercelo a casa, entra duro come faceva prima, no? Cioè, non è cambiato molto rispetto a quando faceva giocatore. Ma zio, quella faccenda degli Oriondi come la vedi? Magari anche qui non saremo d'accordo. A me insomma piace, se un giocatore è eleggibile e ti serve, giusto chiamarlo. Ne abbiamo noi, ne ha la Spagna, che rinuncia secondo me inspiegabilmente a Llorente, per quanto possa essere forte Diego Costa. Tu come la vedi? Io sono contrario. La vedo ma già dai tempi di Camoranesi, Thiago Motta. Faccio fatica, ti dico la verità. Leggevo anche oggi un articolo, insomma, di Albertini, che diceva basta investire sugli stranieri, abbiamo tanti stranieri nel nostro campionato. Noi abbiamo tanto talento, tanti giovani, con l'Under 21, anche nei nazionali sotto, io ho parlato con Sacchi, insomma, poi ci manca sempre un po' di coraggio nel buttarli dentro questi ragazzi, ma ne abbiamo tanti di giocatori italiani, senza avere la necessità di andare a prendere l'Orsi. Con tutto il rispetto, li reputo sicuramente dei buoni giocatori. Anche Paletta è un ragazzo che sta facendo molto bene. Poi mi fido di Roberto Donadoni, che sta facendo un campionato straordinario, che mi dice che è molto forte. Ci può essere un valore aggiunto per la nazionale, va bene, però permettetemi di dire che faccio un po' fatica ad accettarlo. Anche tu, Pier? Beh, gli oriundi secondo me devono fare la differenza. Mostruosamente, allora lì c'è un discorso di opportunità, tu dici? Di opportunità e anche di opportunismo, se vuoi, e di bieco opportunismo, ma no, ma certo, ma ci sta anche questo. Adesso per esempio ho appena fatto un pezzo, oggi c'è l'esordio della nazionale del Kosovo, che è una delle storie, se vuoi, più romantiche. Ancora una squadra non completamente riconosciuta, non può ancora fare le qualificazioni, però intanto ha avuto il primo passo, no? Può cominciare a fare delle amichevoli senza inno nazionale, senza stemmi, ed è una nazionale nella quale potrebbero teoricamente giocare giocatori che giocano in questo momento con altre nazionali, giocatori anche importanti come Shaqiri, come Berami. Diciamo che il concetto di nazione sicuramente rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, in quella che era l'Europa delle nazioni, è cambiato molto, quindi è diventato tutto molto più relativo, ci sono molte più storie di gente che si incontra, che ha diverse origini, provenienze, e che poi alla fine può decidere di giocare da una parte o dall'altra. In generale, secondo me, dal punto di vista tecnico, i giocatori devono fare la differenza. Se sono giocatori che veramente fanno la differenza e che hanno grande voglia di giocare con la tua nazionale perché si sentono profondamente italiani, allora mi piace. Ecco, l'unica cosa che io non sopporto è quando uno ha vestito la maglia di una nazionale e poi ne veste un'altra. Secondo me la maglia di una nazionale deve essere una scelta per la vita, anche se fosse l'under 12. Una volta che hai scelto una maglia, che hai vestito una maglia, allora vesti solo quella, non vale cambiare. Zio, per chiudere, campionato finito, no? Mi pare che non ci sia niente da dire sul fronte campionato. Sembra che sia finito, era già finita prima, domenica è finita ancora di più, e adesso magari ci divertiamo con le coppe, ci divertiamo con le polemiche, ci divertiamo con altre cose. No, Carlo, io prima ci credevo un po' nella Roma, nel senso di poter almeno tentare di andare a dar fastidio alla Juventus. Vabbè, incappato in un pareggio con l'Inter ci sta, una buona gara. È la Juventus che ha vinto una partita, a detta anche di Buffon, con un po' di fortuna, perché io sono rimasto veramente meravigliato dei progressi che ha fatto il Milan di Seedorf in poco tempo. E quindi mi è piaciuto molto. Adesso effettivamente il distacco è molto ampio e lo scontro diretto è alla penultima giornata, distante, quindi recuperare diventa veramente difficile. Quella partita con il Parma sono 3 punti potenziali, però sono ad aprire, un altro film, un'altra vita, un'altra storia. No, quindi... Carlo, ma poi la Juventus, una volta che dopo domenica che incontra la Fiorentina, poi gli rimane solo il Napoli, poi li ha incontrati tutti. È vero che lo scivolone può essere dietro l'angolo e può succedere, che nel calcio mai dire mai, però la vedo talmente solida questa squadra, concentrata. Il doppio impegno ti può togliere qualcosa, ma abbiamo visto che nel doppio impegno l'unica squadra che ha vinto sempre dopo le coppe è stato proprio la Juventus col Toro e col Milan. Hai ragione, ma poi sul Milan hai ragione da vendere. Miglior Milan della stagione, uno spettacolo nel primo tempo, però sai anche come la penso, cioè se non la sbatte dentro il numero 45 non sei a nessuno. Tu sai che io la penso. Il paradosso è che forse le due migliori partite della stagione del Milan sono state 2 sconfitte. Sì. Perché con l'Atletico Madrid e Juve sicuramente la squadra ha dimostrato di crescere, però. E se non sei al 45, è vero, però io da allenatore preferisco perdere così piuttosto che non giocarmela. Hanno avuto coraggio. Poi è vero che non hanno finalizzato, però almeno me la sono giocata. Sicuro. Quindi mi piace l'atteggiamento. Grazie Beppe. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Grazie zio Beppe Bergomi. Adesso abbiamo la borsa di Luigi Pardo. Molto bene. Molto bene. 800240024, poi ascoltatori. Convocati. Luigi Pardo, sai che oggi Maradona ha detto una cosa che non condivido, è strano questo, perché io sono quasi sempre d'accordo anche per principio con Dieghito. Hai letto cosa ha detto su Messi? No. Dice: a Messi non serve vincere il mondiale per dimostrare di essere il migliore. Errore. Nell'Argentina. Ma il migliore di lui o il migliore di lui invece non gli basta, no, migliore di lui non lo sarà poi mai, quello che non questo. Ha detto è che non gli basta vincere il mondiale perché comunque non sarà mai come lui, no, a parte le battute, il che invece sarebbe assolutamente condivisibile, quindi. No, io penso che poi vedi, noi siamo sempre un mondo manicheo, no, dove ci si divide da una parte all'altra. Adesso tutto il dibattito sulla grande bellezza. Non trovi uno che ti dà un giudizio sfumato sulla grande bellezza se vai sui social? O dicono che, cioè, quelli dicono che fa schifo e quelli che dicono che è il più grande film della storia. Cioè, c'è subito questa cosa dello schierarsi da una parte o dall'altra. Io credo che io faccio fatica, insomma, a vivere con questa idea qui. Sì, per me Messi è stato il migliore al mondo. Quest'anno, secondo me, è stato migliore Cristiano. Insomma, sì. Sono due giocatori però, diversi, sai, in valore assoluto, sai che rimane sempre l'interrogativo. Cioè, Messi, innanzitutto, non è un giocatore argentino, è un giocatore spagnolo, è lì da molti anni, e non è neanche un giocatore spagnolo, è un giocatore del Barcellona. Quindi, bisognerebbe, cioè, vabbè, è chiaro che è un giochino, no? Però per capirne la vera grandezza bisognerebbe decontestualizzarlo, cosa che non si verificherà mai. L'unico contesto diverso è quello dell'Argentina, e onestamente con la nazionale argentina Messi non ha mai combinato nulla. Sì, ma questo è evidente, questa è la... Però questo qui è l'applicazione, è il tentativo di razionalizzare il calcio, no? E quindi è un po' come succedeva una volta col vecchio pallone d'oro, che un po' si contavano i trionfi della stagione, alla fine si decideva in base a quello. Secondo me, insomma, Messi è chiaro che con la nazionale non ha ottenuto cose straordinarie, è altrettanto chiaro che ha vinto più di tutti, in assoluto, da attore protagonista, visto che siamo in clima da Oscar. E quindi, secondo me, insomma, poi alla fine, sai, la storia è come il discorso di Ibrahimovic in Champions. Sì, cioè, certo. È chiaro che non l'ha mai vinta, ma io non mi sento di poter dire che sia solo colpa sua, cioè no, si è trovato nelle condizioni di non vincere. Però sai, Cristiano Ronaldo va in nazionale, va in casa di Ibrahimovic, fa doppietta, io sto a chi con quella faccia lì e dici oh non, io a questo sì che mi affido per la mia nazionale. Certo. Viva Dio, no? Poi quella gara lì, però è anche vero che lui gioca al Portogallo, squadra che difficilmente potrà vincere il mondiale, quindi sì. Io ti dico che secondo me l'equazione vittorie premi individuali non mi convince del tutto, cioè mi sembra che non sto parlando di premi individuali, sto parlando di valore assoluto, di collocazione di Messi nella storia del calcio, insomma, alta filosofia. Io guarda, posso dire, la vedo di più come un'uscita di Messi da Barcellona, cioè questo è un tipo di atteggiamento che posso capire. Con l'Argentina o da un'altra parte, Messi potrebbe aver bisogno di dimostrare che può vincere, può essere decisivo, protagonista e straordinario anche in un contesto diverso. Questo è un ragionamento che si può fare, certo. Perché è evidente che la sua straordinaria esistenza calcistica coincide con quella di una squadra che forse è la migliore squadra al mondo di sempre. Ma che poi è casa sua, che poi è il posto in cui è cresciuto, sono mille fattori, poi questo però non la vedremo mai, io credo. Franz da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Salve. Io ho avuto la fortuna incredibile di telefonare per la prima volta e di beccare la linea. Ma dai, veramente. Volevo parlare di un argomento che avete già trattato poco fa, su Conte Prandelli. Mi dà l'impressione, Conte, anche se può aver ragione, di avere sempre qualcosa da dire, di voler sempre essere al centro dell'attenzione a tutti i costi. Io ho questa impressione. Ma anche lei ha l'impressione che abbiamo io e Pierluigi, cioè del fatto che nel rapporto tra Conte e tra Prandelli e la Juventus qualcosa ci possa essere sotto, magari una delusione amorosa, ovviamente calcistica. No, perché io stimo molto Prandelli, quando era allenatore del Parma. No, ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Magari Prandelli. No, nel senso che non trovo una persona, almeno da parte sua, non penso che sia una cosa privata questa. No, ma sa, privata no, però voglio dire, se magari puntava quella panchina, Conte diceva no, sta panchina è la mia, ci resto, eccetera. Ma non lo so, così, sensazioni che ognuno ce le ha e se le tiene. Può anche darsi, tutto è possibile in questo mondo del calcio, però da parte mia, secondo me no. Se mi potete permettere, volevo dire fare i complimenti alla striscia positiva del Parma di 14 risultati utili consecutivi. E poi volevo chiedere a Pardo se c'è la possibilità in futuro di vedere il Parma su Premium. Di vedere? Il Parma su Premium. Non lo so. Non lo so, mi piacerebbe molto. Ovviamente, sapete che insomma in questo momento Premium ha 12 squadre, non vorrei dire cose inesatte, non mi ricordo se 10 o 12, credo 12 squadre, sì, 12 squadre su 20, e sapete che ci sarà in primavera la discussione del nuovo bando per il triennio, c'è stato il bando sulle coppe, ma deve arrivare quello sul campionato, quindi non lo so, insomma dipenderà ovviamente da che tipo di accordo verrà preso. E se poi diciamo a breve no, per quanto riguarda questa stagione no, perché le 12 squadre sono quelle, certo. Tra l'altro credo che ci sia un meccanismo per cui Mediaset può scegliere le prime X, non lo so, non voglio dire cose. Poi chiamiamo l'ufficio contratti, così chiamiamo l'ufficio contratti, però insomma, contratti. Tutto dipenderà in futuro dal nuovo contratto che è in discussione, credo, in primavera. Sergio da Roma, guarda Mediaset o Sky o la Rai o che guarda lei? Quando posso, che le bambine mi lasciano la televisione, cerco di guardare Sky. Sì. Dico la verità. Beh, le mandi a dormire. Cioè, a certo punto, no, bisogna anche far valere certe ragioni. Allora, adesso i nostri figli si impossessano dei nostri telecomandi, delle nostre televisioni, no? Dei nostri decoder. Insomma, fatto gravissimo. Mandiamoli a dormire, bambini. Dopo le 8:30 vanno a dormire. Basta Teletubbies. Basta Teletubbies. Dica, sì. Sergio. No, io mi appassiona sempre il discorso sugli oriundi, perché mi dispiace un po' quando il calcio diventa il regno della retorica, no? Un po' dell'ipocrisia retorica, in che senso? Credo che il calcio sia lo specchio della società, con i suoi vizi e le sue virtù, per cui in questo momento la nostra società è sempre di più multirazziale, multiculturale. Io ho tantissimi colleghi in vari campi che vengono dall'Argentina. Non credo che sia, parlo di paletta, quindi in questa cosa, non credo che sia indispensabile, ecco, come dicevamo, sentirsi profondamente italiano. Credo che un giocatore sia un professionista, si appassiona anche ad un'avventura. No, penso che i nostri giocatori che giocano con un grande attaccamento alle maglie nei club non siano necessariamente, non nascano tifosi di quella maglia. Stiamo parlando di professionisti. Stiamo parlando di professionisti ai quali conviene proprio economicamente comunque giocare in nazionale, quindi è ovvio che in nazionale italiana, argentina, brasiliana, colombiana ci andrebbero in barca o a piedi o in bicicletta, perché economicamente loro conviene. È puramente un discorso professionale ed economico. Detto questo, io sono d'accordo con lei, cioè a differenza di Pierluigi, cioè anche se non fanno la differenza, se sono eleggibili, e questi documenti, non è che Paletta, Osvaldo eccetera, i documenti li hanno rubati, sono eleggibili per una nazionale, e quindi io trovo anche corretto chiamarli. A me piace vedere comunque gli Il punto di diritto, sono d'accordo anch'io, attenzione, dal punto di vista del fascino, secondo me forse non sono così indispensabili. Sì. Detto questo, è chiaro che se hanno i documenti, sono cittadini italiani e possono cittadini italiani sono leggibili, nessuno fa niente di ci mancherebbe altro. Questo senz'altro, insomma. No, anche perché oggi Levi, Osvaldo, non è che ce ne sono moltissimi davanti. Levi, Chiellini, lasciamo stare Chiellini, Levane un altro. Non è che abbiamo tutta questa abbondanza di difensori. A Paletta comunque è uno che da tre stagioni sta giocando ad alto livello, quindi è una chiamata che secondo me ci sta tutta. Poi possiamo discutere, non lo so, a me piace di più lo juventino Llorente del brasiliano Diego Costa, però anche lì stiamo parlando comunque di super giocatori, quindi legittima anche questa scelta. Matteo Domodossola, buongiorno. Buongiorno signor Genta, io voglio dire già subito una cosa, la grande bellezza è Pier Pardo con il suo tiki-taka, complimenti. Vado a dormire alle 2 di notte solo per vederlo. Sì, bellezza, tiki-taka, non Pardo, semmai la signora Satta eccetera, se parliamo di bellezza. No, io se posso la grande bellezza. Io Pier lo adoro. Sì, infatti, quella anche. Mi sono anche mascherato da Pardo a Carnevale. Certo, no, io devo fare i suoi complimenti anche alla sua trasmissione. E poi una cosa, io sono juventino, abbonato allo stadio, voglio solo dire una cosa. Se il signor Antonio Conte, migliore allenatore in Italia, due panchine, si lamenta perché Chiellini è convocato, ragazzi, fuori da tre settimane Prandelli, forse c'è stata un'incomprensione, un pur parlé, e poi se ha i suoi metodi, mi aggancio a un discorso che faceva il signor Pardo a Tiki-Taka, che si arrabbia, per esempio, ma il signor Conte anche su 3-0 a Glasgow ha sbagliato un passaggio Bonucci, t'ammazzo, io dal vivo, gli ha detto t'ammazzo, io dal vivo lo vedo sul 4-0 un indemoniato. Il signor Conte, signor Pardo, un saluto a Mughini, me lo faccia. Sì, glielo faccio. Grazie, mi piace perché lei parla con tutti i signori, proprio sembra Gruciano. Allora, sei pronto ad andare a Napoli? Lo diciamo ufficialmente. Sì, 14. Tutta la cittadinanza napoletana convocata venerdì 14 di questo mese, di marzo, quindi. Sì. Per tutti convocati in diretta da Napoli, fiera degli agenti, comunque saremo a Napoli, in fiera, saremo lì fisicamente e vogliamo tutta la cittadinanza, no? Tutta. Bell'appello, no? Tutta, sin, sindaco compreso, ma sindaco tutte le istituzioni cittadine. Tutti le signore autorità e tutti quanti. Esatto. E poi decidiamo dove andare a mangiare. Ma quello ho già deciso. Già deciso. Non hai margini di trattativa. Non ho margini di trattativa? No. Mi affido a te come sempre. Ciao Pier. Ciao ragazzi. Saluto. Ciao, domani. Traffico, poi di nuovo qui 800240024. Voglio parlare, allungare anche il pallone, parlare di rugby, di Formula 1, di un sacco di cose con voi. Ma voi ci siete? 800240024, convocati tutti come ogni giorno. Tutti convocati. Complicato per l'affidabilità, complicato purtroppo per i piloti che devono pensare a tanti, non solo prima c'erano le gomme, adesso ci sono i consumi, complicato per chi guarderà le corse, perché bisognerà capire tante cose che non sembrano così evidenti solo dal guardare la televisione, bisogna capire quanto ha benzina a bordo, se uno sta risparmiando o meno, vediamo, ci si dovrà abituare, ma credo che ci vorrà un po' di tempo. Questo era ovviamente Luca di Montezemolo, no? E che conferma la mia impressione. Il mondiale che va a cominciare, il mondiale di Formula 1, sarà come, visto che siamo in tema ed è periodo, come una bella festa di carnevale, tutti in maschere per di più al buio. Molto eccitante, ma non sai bene cosa ti tocca. Professor Giorgio Terruzzi, buongiorno. Buongiorno. Io la vedo sarà così. Molto difficile capire. Soprattutto per noi che guardiamo, noi tutti, dalla sala stampa o dalla tribuna o dalla televisione, non si saprà mai chi ha in mano cosa, chi ha usato quanto, chi ha consumato dove, insomma. Una bella mascherata per di più al buio, dicevo. Sì, poi magari ci abitueremo, però vedo anche che i tecnici adesso impiegano moltissimo tempo persino a capire dove. Problema perché hanno 30 centraline a bordo, c'è veramente sto unità motrice che non è più neanche un motore, è complicata, è composta da tante cose diverse, meno inquinante, meno rumoroso, ma complicato. Senti, io con te salto da palinfrasca, Giorgio, anche perché stavamo discutendo a proposito di calcio degli oriundi, opportunità di utilizzarli eccetera, io sono favorevolissimo agli oriundi, ovviamente non li si chiama solo perché hanno cognomi esotici, ma perché sono funzionali a un'idea. Se sono eleggibili, i documenti non li hanno mica rubati, sono eleggibili cittadini italiani, convocabili in nazionale, dunque non ci vedo niente di perverso. Nel rugby, di cui tu sei autorità, io invece sono quello da incendiare in piazza, perché dico che abbiamo una nazionale scarsa, ma questa è un'altra storia che poi affronteremo. Ma io sono un appassionato, non un'autorità, dai. No, tu sei uno sono che... un attivista. Sei un militante. Va bene, sì. Oriundi. Ovviamente in nazionale c'è il rugby mercato, no? Più o meno possiamo prenderli, farli giocare. Sì, ma insomma il problema non è, secondo me, un conto è il caso, un conto è il sistema che dice va bene, allora per migliorare prendiamo gli oriundi, cioè non è la stessa cosa. Sì. Cioè se parliamo di un giocatore, un individuo che per una sua storia personale, come dire, nella categoria oriundi, e quindi secondo me sono d'accordissimo, è giusto che faccia il suo corso. Un altro conto è dire noi per crescere dobbiamo importare una data di questa gente qua, perché insomma è diverso, no? Vuol dire che hai dei problemi in casa, no? Sì, questo vale per il rugby, per il calcio, vabbè, li chiamiamo perché ci servono. No, perché... certo, parlavo del rugby, sì. Invece abbiamo una nazionale che si avvia al decimo cucchiaio di legno in 15 partecipazioni. Poi io dico che siamo scarsi, mi criticano perché dicono che comunque è una bella festa, la buttano sull'iconografia della bella festa popolare, che è così, perché andare a vedere le partite delle Sei Nazioni è una meravigliosa festa popolare, però si può andare anche alla Festa dell'Unità a sentire una band. Non c'è bisogno di parlare di sport professionistico. Lo dico da rugbista, secondo me è una direzione completamente sbagliata, non c'è un campionato ormai di rugby, si parla soltanto quando c'è Sei Nazioni, che ci siano delle eccellenze, delle partite ogni tanto non si sa nulla, nessuno sa nulla, e in compenso Sei Nazioni, questi qui continuano a perdere, un bel momento la gente si stufa, anche perché ho la sensazione che ci sia un problema anche di ricambio, cioè vedo anche alcuni giocatori che hanno fatto buona parte della storia recente del rugby nostro, un po' in affanno, cioè, Castrogiovanni, Paris, non è più, non si può adesso neanche pretendere che questi qui tengano sulla baracca vita, no? Bravissimo, certo. Però sono lì, cioè, secondo me c'è un problema, l'abbiamo forse già detto una volta, cioè c'è un problema di impostazione delle cose a monte. Io penso che sia sbagliato non premiare, strapremiare e coltivare i club, che poi significa un campionato che regolarmente è presente, che porta la gente a vedere le partite nella propria città, che porta i vivai a crescere. Invece si sta facendo tutt'altro, con le accademie, con delle cose che possono fare in paesi anglosassoni, in altri posti dove la cultura è diversa, secondo me. Ma quindi dov'è l'errore per quanto riguarda la nazionale? Cioè dobbiamo rassegnarci, accontentarci così? È come dire ai tifosi della Ferrari, vabbè dai ragazzi, anche quest'anno una bella botta di onorevoli sconfitte per tutti, tanto poi a settembre si va a Monza a mangiare le salamelle. Secondo me siamo come dire, sotto il livello delle altre cinque nazioni, ma non, cioè il gioco espresso nelle partite è il risultato di una differenza che sta nella cultura rugbistica e nel parco dei giocatori, nel modo di trattare il rugby di questi paesi, che è molto diverso dal nostro, è molto più radicata la modalità rugbistica, la fatica rugbistica, la pratica rugbistica. Cioè ci sarà sempre secondo me un divario, perché è come, non so, che differenza c'è tra Milano e Bolzano sul fronte praticanti sci? Uh-huh. Enorme, capito? Uh-huh. Puoi trovare anche due o tre che vincono qualche gara, ma insomma poi darsi un numero molto più alto di gente che è abituata a stare al freddo, che è abituata a sciare, che è abituata ad andare fuori al mattino alle 6 per andare a sciare, insomma. Uh-huh. È un po' questo secondo me. Sì, una volta mi hai detto abbiamo il culo nel burro ed mi sembra un'espressione fenomenale. Cioè, sono convinto di questa cosa qua, ma lo si vede in tante cose, no? Un po' sì, troppo sì. Culo nel burro, come modo di stare al mondo. C'è chi scrive Terruzzi semplicemente numero uno, onore a maestro Terruzzi, grandissimo personaggio. Io invece ti faccio rispondere a sto messaggio che non ce la faccio più. Nazionale di rugby scarsa, siamo tra i primi 10-12 al mondo, fenomeno, mi scrivono. Vabbè, primi 10-12 al mondo. Cioè, dipende dalle ambizioni, nel senso che se tu corri per il decimo posto sei il primo, se tu corri per il primo sei decimo. Poi vediamo anche in quanti si corre. Stiamo parlando di una misura dell'Italia rispetto alle altre squadre delle sei nazioni, che a loro volta sono in affanno con le tre squadre, cioè Sudafrica, Australia e Nuova Zelanda del Mistero Sud. Quindi siamo 5 più 3, 8 più l'Argentina 9, siamo decimi, infatti. Sì. Però se tu ambisci a fare la gara con quelli lì, bisogna che provi a vincere, se perdi sempre, insomma. E becchi 40 milioni l'anno la federazione. Comunque Giorgio, io vorrei chiederti ancora una cosa prima di salutarti e darti uno strano appuntamento un giorno di questi qui alla radio, perché ce lo siamo detti, io non sveno niente, non parlo di niente, sto zitto, una tomba però ti aspetto qui un giorno, che mi dirai tu. Formula 1, la Red Bull è un caso o no? No, è una macchina che non va, mi dirai. No, però questi qui hanno fortuna anche quando gli va male, perché questi sono in ritardo, per la prima volta via dopo 4 stagioni di sciambola partono in ritardo nell'anno in cui all'ultima gara si doppi punti, è il massimo del culo. Cioè, conoscendo il curriculum fresco di Alonso della Ferrari, capace che per la prima volta questi arrivano a Abu Dhabi, ultima gara, davanti 9 punti, quindi ne basterebbe uno, e invece quello là ne prende 25, cazzo. Quanta ne prende, anzi, non è che... Cioè, il massimo, cioè loro è un caso, nel senso che no, non è un caso, cioè ci sta che in una rivoluzione qualcosa vada storto. Io penso che siano tutti molto bravi a risolvere i problemi, quindi secondo me, e la macchina è forte, è buona, perché il motore ha un sacco di problemi, si è fermato, ma quando girava si vede subito che è una macchina, c'ha buona pasta, che è fatta da quel solito testa fina di Newey, quindi è in difficoltà adesso, però non che sia standard. Non sarà questa la situazione definitiva, anche se caro professore ti saluto augurandomi da sportivo un bel duello. Io darei qualunque cosa per vedere Alonso e Raikkonen combattere per il titolo, uno accanto all'altro, uno vicino all'altro, uno davanti all'altro, dietro all'altro, ma vederli combattere tutti e due, lì mi divertirei come un pazzo. Però professore no, somaro più che professore. Tu non lo vuoi vedere quel duello lì? Veramente lo dico, un abbraccio. Ciao lavoro. Giorgio, ciao Giorgio Terruzzi. 800 24 00 24, adesso c'è il GR, poi abbiamo solita ventina di minuti per chiacchierare amabilmente tra noi, io ovviamente vi aspetto. vedremo una stagione molto particolare, una stagione dove mi aspetto di vedere dei cambiamenti dalla prima gara alla seconda, alla terza, con degli sviluppi continui, dove all'inizio sarà fondamentale essere affidabili, perché senza affidabilità non si faranno dei punti, dove delle squadre che in questo momento sembrano più in difficoltà recupereranno, dove altre squadre che in questo momento sembrano un pelino più avanti rispetto agli altri probabilmente potrebbero plafonare la loro prestazione, quindi una grande cautela e grande prudenza come sempre. Credo che, come abbiamo visto fino adesso, i tempi mettono davanti a tutte e due squadre, che sono Mercedes e Williams. Convocati. Dunque, adesso voglio riparlare con voi, perché me ne abbiamo raccontate tante e adesso voglio sentire la vostra voce su quello che vi pare. Poi non venitemi a dire: ma sono giorni che parli di questo, di quello, di quell'altro. Oh, vi convoco apposta. 800240024. Riccardo Cuneo. Sì, buongiorno, sono Riccardo da Cuneo. Allora, velocissimamente sul rugby. Sì. Prima è stata detta una grossa inesattezza: non ci sono ricambi a Castro Giovanni, ma cioè De Marchi, Rizzo, ricambi all'altezza. Poi posso dire una cosa, poi mi replica come vuole. Guarda, io paradossalmente trovo meno criticabile, anche se molto criticabile, questa partecipazione alla Sei Nazioni, proprio perché abbiamo visto qualcosa di ciò che verrà, che non è all'altezza di quelli che c'erano prima, non è all'altezza di Paris, Castro Giovanni, dei senatori che hanno anche il diritto di essere un po' finiti, però in questa edizione quantomeno abbiamo visto i Campagnaro, abbiamo visto qualcosina, gioco forza, ma abbiamo visto qualcosina. Però Riccardo, all'altezza di quelli vecchi, questi non sono, secondo me. Questo lo dice lei, tanto sì. Che De Marchi e Cittadini sono stati prenotati dal BAT, mi sembra, la squadra inglese, che certamente non sono i Saracens, ma sicuramente non sono l'ultima squadra che bazzica ne abbiamo avuti tanti a giocare all'estero, restano 10 ucchiani legno in 15 edizioni. Non credo che siano tantissimi, perché sono da quando l'Italia è nel Sei Nazioni. Sì. Tra l'altro volevo anche dire una cosa, perché io ho 48 anni e seguo il rugby da che ne avevo 10, quindi penso di avere un'età che possa essere valida per dire le cose. Fino al 1999, cioè l'anno prima di entrare nelle Sei Nazioni, noi, perché io sono tifoso della nazionale italiana, non abbiamo mai, e dico mai, giocato con le prime squadre, cioè le squadre delle cinque nazioni di allora, di Francia, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. La prima nazionale che ha avuto il coraggio, coraggio, diciamo così, fra virgolette, di scontrarsi con noi, pronto? Sono qui, sto ascoltando. Sì. Prima che noi entrassimo nelle Sei Nazioni è stata la Francia, perché l'Inghilterra, la prima partita ufficiale che ha fatto la nazionale italiana di massimo lignaggio contro la massima rappresentativa inglese, è stata la prima partita delle Sei Nazioni del 2000. Per cui i risultati che sono avvenuti prima del 2000 erano sempre comunque con squadre considerate nazionali A. Però Riccardo, va bene, stiamo facendo un po' di storiografia, però con Villepreux la sensazione era quella di crescere. Non ne parliamo con Georges Coste, che con il quale siamo arrivati alla soglia, siamo arrivati a varcare la soglia, i cancelli d'oro, che sono d'oro a tutti gli effetti, perché lei sa quanto si prende solo per stare in quel giardino, anche perdendo sempre. Abbiamo varcato quei cancelli d'oro, da lì fasi molto alterne, crescite con Barbizier, poi le scelte secondo me sempre molto inopportune di tecnici dell'altro emisfero. Morale, il rugby è diventato uno sport molto popolare, i suoi attori sono diventati degli sportivi molto popolari, molto noti, molto pagati, pur perdendo sempre, perché questo è il fatto, e a me sembra una logica un po' strana, cioè nel senso che stare nelle Sei Nazioni per prendere tutte le volte, non so fino a che, e poi dover dire: ah, siamo bravi lo stesso, onorevoli sconfitte, che bello, ci divertiamo, siamo tutti amici e non ci sono quegli stronzi del calcio. Vabbè, a me è una logica che non piace, cioè visto che stiamo parlando di professionismo, io credo sia anche il caso qualche volta di chiedere conto di dove si sta andando. Andiamo avanti così, andiamo avanti a prendere da tutti, va bene, se a voi piace, a me no. Roberto Pesaro, buongiorno. Sì, buongiorno, mi volevo riallacciare alla partita del Milan. Sono pienamente d'accordo con lei sul fatto che se non c'è il 45 lì non la butta dentro nessuno. Mi sembra un dato di fatto. È un dato di fatto assoluto. Io devo fare una domanda, perché non ho seguito le puntate dei giorni scorsi che non ci sono stato. Il caso Onda, secondo me, ha ragione a essere molto molto arrabbiato sul fatto che entra a saponare al posto di Onda. Cioè, sì. Non ha giocato, io gioco a calcio da una vita, non ha sì. giocato, non ha giocato. Volevo sapere il suo parere, non ho sentito i giorni scorsi, non so. No, non c'ero, le ho detto, era una lunga festa di carnevale con Ghezzal, vestito da Bin Laden, io da Pardo. L'ho detto prima. No, ma no, sul serio, cosa ne pensa lei? È stato irretito, è stato indisponente con le pantofole, come entrava in campo Seedorf in alcune occasioni quando non ne aveva neanche per idea, entrava con le pantofole e Onda è entrato in questo modo. Però insomma, Seedorf è qualcosina. Ha fatto per il Milan in valore assoluto, in linea di massima si sa chi è, eccetera eccetera eccetera. Certe volte si sentiva un po' boicottato, sportivamente maltrattato, ed entrava in campo, io me ne ricordo alcune, ma come fosse ora. Mi ricordo Seedorf entrare in campo a Palermo in una trasferta davvero che se poteva si faceva autogol. Quanto a Onda invece, mi sembra che insomma sia davvero una grandissima delusione, io credo, per i tifosi milanisti, perché è arrivato con, lasciamo stare tutte le baggianate del Beckham d'Oriente, delle lettere d'amore al Milan di quando era piccolo, lasciamo stare tutte queste sciocchezze, però i giocatori giapponesi, guardiamo Nagatomo, che è un giocatore che certo non ha a livello di Onda, i giocatori giapponesi, Nakata, Nakamura eccetera, nel nostro campionato mediamente sono, ha fatto sempre delle ottime figure. Arriva questo che teoricamente potenzialmente è il più forte di tutti, salvo Nakata che era credo di un altro livello, eppure è lì da vedere. Insomma, io non lo ricordo giocare bene nemmeno uno spezzone di partita, salvo quella di esordio, ma quella è quasi fisiologico, o no? Marco Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno Carlo, ciao, sono Marco Pisati, sì. Faccio allenatore di rugby. Ciao Marco, ciao. Siamo amici. Mi collegavo in relazione a quello che ho sentito, anche a quello che ha detto Giorgio. Sì. Nel senso, sicuramente la federazione probabilmente deve riversare un po' più di risorse rispetto al lavoro che fanno i club, però rugby è uno sport che richiede molta pazienza, nel senso che comunque colmare un gap di 100 anni non è così semplice in così breve tempo. Ecco, noi è poco tempo che ci confrontiamo con queste squadre, secondo me quest'anno siamo stati degni, poi che magari nel mondo professionistico, dello sport professionistico si debba pagare dazi ogni tanto, sono perfettamente d'accordo con te. Sì, no, Marco, quello che ti chiedo è, onestamente, ha un senso avere una nazionale, l'unica nazionale dello sport italiano che è immune da ogni critica? No, assolutamente. Infatti, è quello che io dico. È criticabilissima la nostra nazionale, nel senso che comunque anche le ultime prestazioni sicuramente non danno adito a essere criticate, però da lì sai a dire che forse siamo sopravvalutati, ecco, da lì ad essere sopravvalutati c'è una via di mezzo. Uh-huh. La nostra non è una nazionale sopravvalutata, è una nazionale che purtroppo si deve confrontare con un altissimo livello e ripeto, il gap, quindi 100 anni di non partecipazione a un torneo del genere, comunque richiedono del tempo e sì. richiedono diciamo che certi meccanismi vengano metabolizzati. Ma tu poi sai meglio di me come senz'altro un grande risultato, anzi il più grande risultato raggiunto da questa nazionale di rugby sia stato quello di creare un effetto volano che, e tu me lo puoi dire, visto che insegni rugby da una vita, è stato quello di portare molti ragazzi a questo sport, e questo è innegabile. Poi è chiaro che bisogna vederli crescere, sono chiare tante cose, però io sto provando a vedere se c'è un errore, cioè se c'è un errore nel continuare a dire ok, perdiamo, vabbè, bravi, dai, fa niente. Certe volte situazioni imbarazzanti, no? Con gli stessi giocatori che dicono vabbè, ma ci dite che siamo bravi, ma perdiamo sempre. Sì, secondo me, allora, sì, è vero che entrando nelle 6 nazioni noi abbiamo acquisito sicuramente popolarità e abbiamo aumentato i praticanti, ma sono due vasi comunicanti questi, nel senso che comunque noi siamo lì anche perché abbiamo aumentato i praticanti. Uh-huh. Quindi probabilmente forse bisogna pensare, come diceva Giorgio, in parte a riversare delle risorse anche sul lavoro che fanno i club, perché sì. sono quelli che creano i presupposti per la crescita di tutto un movimento, ecco. Quindi trovare un po' di equilibrio fra quelli che possono essere i progetti accademici, secondo me sono validissimi, e il lavoro che fa la base, probabilmente ci può dare qualche risultato in più. Poi sono d'accordo con te che alcune scelte, alcuni tecnici, magari soprattutto dopo Vipro e dopo Costi, che hanno dato una spinta notevole al movimento, hanno lasciato un pochettino desiderare. Però sai, fa parte del mondo dello sport, ecco. Sì. Sì, senza mai dimenticare che è sport professionistico, e quindi qualcuno che qualcuno deve rendere conto di queste scelte ci dovrà pure essere. Io a livello di club come allenatore rendo sempre e devo sempre rendere conto ai dirigenti. Esatto. E non prendi quello che ha preso Johnston, lasciando stare Mallet. Posso farti l'elenco di certi commissari tecnici onestamente sbagliati. Marco, ti ringrazio, ti abbraccio. Un piacere. Ciao Marco, grazie. Lorenzo Prato, e poi andiamo a casa. Sì, ciao Carlo. Altra festa di carnevale. Grazie a te, dimmi. Ciao, ascolta, la considerazione, visto che siamo ormai a 199 giorni dal mondiale, credo che faremo un buon mondiale, perché il gruppo che abbiamo mi piace, con un fuoriclasse solo, probabilmente massimo due, quindi Balotelli e Pirlo, con Pirlo un po' avanti nell'età. Però credo che di base faremo un bel mondiale. Mi viene una considerazione che vorrei proporti, vorrei sapere la tua opinione. Penso che tutto il movimento calcistico ha avuto un grossissimo culo a non avere Messi naturalizzato spagnolo, ecco. Sentivo prima dicevi no, altrimenti ci vedeva Spagna. Lorenzo Messi è di fatto spagnolo, è arrivato lì che aveva 12 anni, era alto 1,08 m, e poi è diventato Messi. Messi non solo è spagnolo, è catalano, è un giocatore del Barcellona, è prodotto di quel vivaio lì, cioè una situazione praticamente non replicabile. Ma meno male comunque che non si sono imbertati anche il passaporto di Messi, sennò poi si potevano non giocare i mondiali. Poi, detto questo, i mondiali secondo me sono così, il massimo della vita, proprio perché imprevedibili. Vale tutto, tu hai ragione, anche a me piace questa nazionale. Mi piace questa nazionale, tra l'altro esce da un grandissimo risultato come è stato l'europeo, in cui abbiamo perso la finale, ovviamente con la Spagna. Per il mondiale ti giochi tutto 90 minuti, poi per 90 minuti, poi per 90 minuti, 9-18-27, o vai avanti o sei a casa, poi magari ne giochi altri 90 e se non va bene c'è il fischio sbagliato, visto che a voi piace un sacco questo argomento, c'è il colpo di sfiga o di fortuna degli avversari, e insomma il mondiale è imprevedibile. Possiamo fare delle fasce, dei ranking, delle griglie di partenza, tanto sappiamo che saranno carta straccia. Quello che insomma che io comunque non riesco a capire, ovviamente stasera si guarda Italia-Spagna alle 22, si fa tardi, non come Compardo, ma si fa tardi, però non riesco a capire l'utilità, l'opportunità di giocare, di mettere in calendario delle partite della nazionale in un momento in cui si sa che le squadre sono stremate e sono in altre faccende affaccendate tra i momenti decisivi dei campionati e le coppe. Credo che questo non sia un pensiero di retroguardia soltanto italiano, credo che in ogni campionato di questa sosta per le nazionali si sarebbe volentieri fatto a meno. Ragazzi, sentiamo domani. Franco Bentanini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti, regia, ciao.